Tre Sampdoria, dunque, sono le prime due sfide molto tirate che hanno lasciato spazio a ampie recriminazioni da parte di Roma, Roma e Udinese e di varia natura. L'Udinese ha sprecato il match ball di un rigore all'ultimo minuto calciato da Di Natale sul palo. La Roma lamenta il gol decisivo di Ibrahimovic in fuorigioco, anzi in doppio fuorigioco, e un probabile rigore non concesso a Vucinic sullo 0-0 giusto un attimo prima che una combinazione difensiva da dilettanti allo sbaraglio con protagonisti Rise, Wang e poi Mexès e uno scivolone di Sisinho, quindi tutta l'intera linea difensiva da scherzi a parte, regalasse il gol ad Adriano. Le voci ricavate dalle interviste Rai di ieri sera. Mourinho: sono contento con il risultato, ovviamente, però sono anche contento perché si parlava che la Coppa Italia non era una competizione importante, che tutte le squadre non giocavano questa competizione nel massimo del suo potenziale. Mi sembra che in questo momento tutti lo fanno, l'Udinese ha fatto, il Sampdoria ha fatto, noi, la Roma, e chissà, siamo tutti quest'anno responsabili per una Coppa Italia molto più bella. Sicuramente la nostra semifinale con la Sampdoria, più gente nello stadio, più emozione e un rispetto per una competizione che io penso che merita, ovviamente. La squadra è stata una squadra e i giocatori hanno risposto bene in campo alla negativa performance di domenica scorsa, e è molto importante parlare in campo, e loro hanno parlato in campo e la risposta positiva, anche poteva essere una sconfitta, perché per me sconfitta può succedere, ma con questo atteggiamento, con questa mentalità, ovviamente sono molto soddisfatto con i giocatori. Ci sarà spazio poi nel corso della trasmissione anche per i vostri interventi e per i vostri commenti, anche se, come è d'abitudine al giovedì, oggi in linea di massima affronteremo o comunque daremo la precedenza ad altri argomenti, già oltretutto uno dei quali già strillato in precedenza, e cioè la nuova normativa antidoping che la WADA, l'Agenzia Internazionale, ha varato, che è teoricamente già in vigore dallo scorso 1 gennaio e che sta suscitando qualche perplessità, molte polemiche, soprattutto tra i praticanti di discipline, vedi il calcio, che non erano abituati, a differenza di altre discipline, vedi il ciclismo, non tanto alla severità dei controlli, ma alla severità in materia di reperibilità dell'atleta. Ne parliamo tra poco con Marco Bellinazzo, con il quale affronteremo anche un altro argomento di strettissima attualità, visto che la Lega Calcio ha reso noto da poche ore i dati sugli spettatori del girone d'andata, che a sorpresa sono in aumento e anche in considerevole aumento, stando perlomeno alle cifre ufficiali. Dopo il commento di Mourinho, quello di Spalletti, sempre ai microfoni Rai. C'è rammarico perché i ragazzi hanno giocato una buona partita e secondo me si meritava di più, al di là dell'episodio, poi però bisogna accettarlo, perché poi anche l'Inter ha giocato altrettanto bene, è stata una partita viva, giocata ad alto livello, ad armi pari, con continui ribaltamenti di fronte, per cui quando si gioca così si va a casa e bisogna essere tutti soddisfatti. Fino a un certo punto, nel senso che per esempio se era soddisfatto Spalletti, giustamente, per la bella partita della sua squadra, è stata complessivamente una partita bella in assoluto, un po' meno lo è stata la dirigenza della Roma. All'Inter non serve vincere così, ha detto Rosella Sensi, battuta abbastanza incomprensibile, perché in realtà all'Inter serve anche vincere così, visto che in semifinale C'è andata lei. Sentirei adesso l'intervista da Sky ad un altro personaggio del calcio che riappare dopo una lunga eclissi. Non riappare ancora in campo per il momento, ma riappare da Miami ed è già un primo avvenimento. Parlo del centrale del Milan, Alessandro Nesta. Sono arrivato adesso, perciò vado a Milanello e vedo, inizio a lavorare, poi dopo vediamo quando sono a posto. Giocherò, vediamo. Sono 8 mesi che non gioco, vediamo come reagisce il fisico e poi dopo vediamo. Però voglio tornare bene, a alti livelli, questo è il mio auspicio. Penso presto, comunque ho bisogno di lavorare fisicamente, penso, non lo so, presto. Ho fatto tutto esercizi per diminuire queste ernie e poi per rafforzare tutta la zona lombare. Ho fatto un po' di cose, ho fatto, perciò sono contento del lavoro che ho fatto. È stato anche chiesto a Nesta, nel corso di questa intervista, se non gli avessero dato fastidio le voci su un possibile rischio di una carriera già conclusa per via di questi problemi alla schiena, e lui ha risposto con molta sincerità: questo rischio c'è stato e non so se poi non ci sarà ancora, e quindi questo non può avermi dato fastidio. Io ascolterei un ascoltatore non è un granché come cacofonia, darei spazio a un ascoltatore e poi, dato che nel frattempo mi ha raggiunto Marco Bellinazzo, cominciamo con i due capitoli già preannunciati. Francesco, provincia di Viterbo, buongiorno. Sì, buongiorno, era riferito al discorso del Vata che voleva fare quei controlli, o almeno avere la reperibilità dei... Allora entriamo subito in argomento, grazie a lei. Sì. No, il discorso è questo, che già nel ciclismo, come l'hai accennato, c'è, però non ha dato grossi risultati, visto che i grandi poi sequestri di sostanze dopanti oppure i controlli fatti a Ricco sono stati fatti poi nel Tour de France, quindi essenzialmente anche questa reperibilità, che da un punto di vista strettamente legale non lo so, ma non mi sembra una bella cosa, e poi non ha dato quei risultati che poteva sembrare, insomma, essenzialmente, quindi... Diciamo, è una regola che in altri sport non ha dato grossi risultati. Nel calcio forse, visto che erano abituati un po' meno a questi controlli, farà un po' più rumore, però non credo che dia grossi risultati, insomma, ecco, il controllo antidoping è fatto al momento in cui c'è la gara, come sempre sono fatto. Ma Francesco, su questo si può discutere. Comunque lei ha già introdotto due argomenti, due chiavi di lettura. Uno è quello dell'efficacia, mi pare, e uno è quello della legittimità da un punto di vista giuridico. Allora, ripeto, a Marco Bellinazzo, che anche oggi ha disceso il piano di scarica, se parla la redazione del Sole 24 Ore da quella di Radio 24, sottopongo subito queste due interpretazioni, queste due chiavi di lettura, insomma. Il nuovo codice Vada, quello che si applicherà dal 1 gennaio 2009, si applicherà perché, insomma, il CONI sta cercando di applicarlo con dovizia di particolari. Ecco, chiarirei subito questo, cioè è già entrato in vigore, ma l'aspetto pratico, insomma, l'aspetto logistico ancora non è stato Il CONI lo sta implementando, lo sta mettendo in funzione per quegli aspetti delicati di rapporto tra controllo antidoping e privacy degli atleti, di cui abbiamo accennato l'altro giorno, di cui magari tra un po' parleremo. Sì. Però volevo subito rispondere all'ascoltatore che diceva i controlli poi vanno fatti in gara e in gara vanno scoperti, diciamo, gli atleti che truffano. In realtà l'esperienza del nuovo codice Vada, posto che il codice è stato varato il 1 gennaio 2004 e ha avuto già 4 anni di applicazione, ha insegnato alla Vada che chi si dopa bene in gara non viene scoperto. Mai, praticamente mai. Praticamente mai, perché chi si dopa bene, cioè chi ha i mezzi per doparsi in un certo modo, chi ha le strutture, chi ha i medici purtroppo che seguono queste pratiche, possono calibrare e dosare il doping in maniera tale che al momento della gara non dovrebbero più esserci, diciamo, nelle tracce biologiche, urine o sangue, tracce appunto delle sostanze dopanti. I veri controlli, quelli che spaventano gli atleti, che truffano, vanno fatti, si dice, fuori competizione, a sorpresa. Ed è appunto sulla base di questa esperienza che è stata creato, diciamo, un nuovo sistema con questa sorta di reperibilità 24 ore su 24, che un po' sta spaventando, insomma, varie categorie, ciclisti, calciatori, ma in genere, insomma, tutti gli atleti di elite che saranno interessati da queste novità. Non spaventa, ti interrompo un istante solo, perché è bastato lo strillo di due giorni fa per sollecitare alcuni ascoltatori che hanno scritto. Marco Vivona scrive, per esempio, riguardo questa nuova procedura: volevo segnalare che questa pratica è attiva da tempo, per esempio nel mondo del triathlon. Nel 2006 infatti incappò in questa procedura allora campione del mondo l'inglese Tim Don, che fu sospeso per 3 mesi per aver saltato 3 controlli consecutivi nell'arco di un anno, che è esattamente mi pare, queste regole vengono ora, diciamo, allargate a tutte le discipline, a tutto il mondo, via via saranno applicate, proprio perché si è visto che i controlli, ripeto, fuori competizione sono gli unici che veramente spaventano chi è intenzionato a truffare, e che appunto bisognava diciamo, associare alla reperibilità anche delle vere e proprie sanzioni, perché la reperibilità c'era anche prima, ma non c'erano sanzioni. Oggi ne salti tre in 18 mesi, in un anno e mezzo, oppure non solo ne salti tre, oppure dai per esempio informazioni errate, non ti fai trovare per tre volte, o non ti fai trovare, e scattano sanzioni che possono arrivare fino alla squalifica di 2 anni, che è una delle massime sanzioni applicate, cioè, a chi poi in realtà realmente si scopre. Insomma, chi bara sulla reperibilità è considerato un atleta che si dopa allo stesso modo di chi poi le sostanze, diciamo, dopanti li assume davvero. Un altro ascoltatore, ti interrompo ancora, scusami, che si chiama Andrea Loro, scrive dalla provincia di Vicenza ed è un ciclista praticante, perché lo dice, racconta esperienze, fa un altro esempio molto significativo che insomma, chi segue il ciclismo ben conosce, della scorsa stagione. La reperibilità è da tempo un punto cruciale nella lotta al doping nel ciclismo, con effetti anche grotteschi, dice lui. Basti pensare a quel ciclista Rasmussen che stava vincendo il Tour de France e che fu spedito a casa solo perché Cassani disse in diretta Rai di averlo visto sulla marmolada 2 mesi prima, quando lui aveva dato in Messico la sua reperibilità di quel periodo. Proprio per evitare questo tipo di incongruenze, infatti la WADA ha creato un sistema, una banca dati che si chiama ADAMS, poi si creano questi acronimi insomma un po' suggestivi, che funziona in questo modo: l'atleta sarà munito di una sorta di password, quindi potrà accedere a questa banca dati e lì immettere i suoi dati di reperibilità, cioè dire oggi 24 febbraio mi troverò dalle 8 del mattino alle 12 in questo luogo, domani sarò in quest'altro luogo, e specificare, diciamo, 24 ore su 24 tutti i suoi spostamenti e la reperibilità, e in particolare poi durante, diciamo, le 24 ore della giornata, in particolare però dalle 6 del mattino alle 11 dovrà essere data la disponibilità di un'ora, di 60 minuti, in cui, diciamo, l'atleta non solo dovrà indicare dov'è, ma dovrà essere disponibile per subire un controllo antidoping, fosse sull'urina o sul sangue. E la mancata, diciamo, reperibilità in quei 60 minuti sarà considerata ancora più grave rispetto, diciamo, a errori di comunicazione o al fatto che l'atleta poi non sia trovato nella restante parte della giornata. Questo sistema, diciamo, il CONI per il momento non l'ha adottato per le ragioni di privacy di cui dicevamo. Il CONI sta cercando, insomma, di trovare delle soluzioni alternative, proprio perché si rende conto che esistono innanzitutto dei diritti degli atleti in quanto appunto cittadini sulla libertà di spostamento che vanno tutelati, e poi perché c'è anche un problema, diciamo, legato alla sicurezza degli atleti. Siccome questo è un sistema che si applicherà agli atleti di grande livello, è chiaro che indicare dove e come si può trovare un certo, appunto, atleta sportivo famoso tutti i giorni e metterlo in un sistema informatico che magari non dà particolari sicurezze, certo, può finire in mano a chissà chi, certo. Può esporre appunto atleti famosi anche a rischi, insomma, di essere... Era proprio lì che volevo più o meno arrivare, cioè è ovvio che tu non sei la WADA, né io sono un atleta praticante, se non altro per ragioni anagrafiche, però supponiamo che io lo sia e che tu sei invece un uomo della WADA, ti domando, ma come posso io indicarti dove mi troverò tra 2 mesi e mezzo, per esempio a quell'ora, visto che indipendentemente dalla disciplina che pratico, insomma, in un caso posso avere un allenamento fuori sede, nell'altro sono infortunato e sto recuperando in palestra anziché dove, avrò una seduta di fisioterapia, invece la mia squadra farà saltare un amichevole, non lo so, cioè, avrai mille variabili impazzite. Avrai la tua password, come dicevo prima. Sta parlando la WADA in questo momento. Sì, accederai al sistema ADAMS e comunicherai la variazione. Per attenzione che non puoi ovviamente comunicare la variazione della giornata, diciamo, nella giornata di riferimento dopo che c'è stata, perché quella, certo, è un'irregolarità. In ogni caso preventiva. Esattamente. Bene, mi ha risposto la WADA con questo simpatico accento napoletano e per il momento mi ritengo soddisfatto. Torniamo in onda con Marco Bellinazzo, che ci ha già illustrato e adesso scenderà ancora più nei particolari questa nuova normativa antidoping che è rubricata sotto la voce reperibilità continua, anzi ininterrotta, a 3 mesi, non denunciabile ma da denunciare ogni 3 mesi. Allora, come funziona per esempio nel calcio? Diciamo innanzitutto che queste nuove regole si applicheranno a un elenco di atleti di tutte le discipline, atleti diciamo di vertice di tutte le discipline, sarà sì. creato un elenco di ogni federazione, ogni comitato olimpico dovrà tenere, e questi atleti insomma dovranno essere sottoposti a questo regime di diciamo sorveglianza speciale, chiamiamola così. E si applicherà per esempio anche ai campionati di Serie A di calcio maschile, di basket, di volley, di rugby. In Italia tra l'altro il volley è anche al campionato di Serie A femminile, perché insomma la squadra ha ottenuto ottimi risultati, la squadra nazionale, quindi si applicherà anche al volley femminile. E in più tutti gli atleti che vengono in genere considerati insomma internazionali, di valore internazionale in tutte le discipline, dal nuoto, ciclismo, atletica, nessuno potrà insomma scampare a questi controlli. Nel calcio in particolare è previsto innanzitutto un cambio di regime del tipo di controlli, perché fino alla prima giornata del campionato, diciamo in questo campionato, fino alla giornata diciamo fino al 31 dicembre 2008, i controlli erano a sorteggio, in sostanza a sì. fine partita venivano sorteggiati due nomi di due calciatori. E quindi a questi soggetti venivano applicate insomma tutte le forme di verifiche previste dal protocollo antidoping. Siccome la WADA adesso vuole controlli mirati, cioè controlli sugli atleti potenzialmente a rischio perché considerati atleti di vertice, ecco che i controlli diventano nominativi, cioè i calciatori da sottoporre al controllo saranno preventivamente indicati con nome e cognome, saranno scritti in una busta che viene consegnata al medico, il medico si presenta allo stadio e quei due signori insomma saranno chiamati dopo la partita a sottoporsi ai controlli. Peraltro è stata la novità pericolosa, se vogliamo, per le squadre, è la introduzione di questa sorta di responsabilità oggettiva per doping, cioè se nel corso di un campionato due atleti appartenenti alla stessa squadra saranno scoperti a commettere infrazioni, commettere infrazioni che riguardano sia proprio il vero e proprio diciamo episodio di doping, sia come abbiamo detto scorrettezze dal punto di vista della reperibilità, alla squadra sarà applicata una sanzione economica o addirittura delle penalizzazioni in termini sportivi, quindi meno punti in classifica. Questa è una delle novità che riguarda il calcio, per credo esempio. Che nel caso dell'Italia perlomeno sia il ripristino di una perché una volta esisteva la responsabilità oggettiva per doping, nel senso che non era una responsabilità individuale del calciatore ma veniva estesa, e come la società, famoso giallo Bologna-Inter del 64, beato te che per ragioni anagrafiche non lo ricordi, ma insomma con i calciatori di Bologna prima squalificati per doping e poi invece riabilitati dopo le controanalisi. Ne approfitto, faccio una brevissima pausa, perché Piero mi scrive: visto che lei non fa mai i complimenti a Bellinazzo, glieli faccio io perché è chiaro e preciso. Beh, è troppo buono. È troppo buono lui, però mi fa passare per un villano rifatto, cosa che non mi sembra. No, scherzo, Piero. Vabbè, quindi il calcio si regola così, addirittura con l'introduzione della responsabilità oggettiva. Noi abbiamo già dei dati, abbiamo già a disposizione dei dati dal 1 gennaio a oggi, delle curiosità, delle... Diciamo che innanzitutto che il CONI, questo dobbiamo fare i complimenti al CONI, e che la struttura antidoping nazionale è sicuramente all'avanguardia per la lotta al doping, come dimostra il fatto che per esempio su segnalazione del CONI sono stati squalificati importanti atleti prima delle Olimpiadi. Come no? E per esempio anche le iniziative, siccome prima si parlava dei controlli. Sì, questo è vero, perché va ricordato che le grandi pulizie furono fatte prima. Sì, della... siccome appunto prima si parlava del Tour de France, dei francesi che hanno scoperto Ricco e Piepoli, diciamo che qualche segnalazione dall'Italia era arrivata. Credo sia aggiunta. Credo in ogni caso, arrivare. Il CONI fa circa 11.000-12.000 controlli all'anno su atleti, diciamo, professionisti, che è un numero abbastanza rilevante, che è sicuramente superiore a quelli diciamo dei controlli che vengono fatti in Francia o in Spagna o in Inghilterra. Peraltro in Italia esiste un doppio sistema di controlli, nel senso che il CONI fa i controlli sugli atleti di vertice e sulle manifestazioni diciamo sportive più importanti, mentre c'è una struttura all'interno del Ministero, di quello che era il Ministero della Salute, oggi è il Ministero del Welfare, che è denominata Commissione Antidoping, che è chiamata a fare controlli invece sugli atleti che fanno sport amatoriale, sport non agonistico. Sì. Più o meno nel 2007 l'ultimo rapporto insomma fatto al Parlamento, che questa commissione è tenuta a fare un rapporto al Parlamento ogni anno sull'attività antidoping, parla di 1607 controlli fatti e di 46 atleti trovati insomma positivi a questi controlli. Peraltro Leggendo questo rapporto è abbastanza diciamo sintomatico di come il doping sia una pratica diffusa non solo negli atleti di vertice, ma purtroppo anche nei giovani e in chi fa lo sport, chi dovrebbe farlo semplicemente per una questione di salute, il che sembra un paradosso, certo, assoluto. Per esempio, in questo rapporto si dice che non so, nei campioni femminili erano per lo più presenti cannabinoidi e diuretici, mentre in quelli maschili, oltre all'assunzione del principio attivo della marijuana, si registra un maggior uso di stimolanti, primo fra tutti la cocaina. Ora io mi chiedo perché uno che fa sport debba, diciamo, certo, utilizzare, insomma, questi strumenti per vincere magari sul proprio vicino di casa, come spesso succede, come spesso ci raccontano nello sport amatoriale. Nello sport amatoriale la cosa grave è che si parla di sport amatoriale. Per esempio si dice che emerge che gli stimolanti sono preferiti nella pallacanestro, nel nuoto, negli sport equestri, nell'hockey, nel pattinaggio, nell'atletica leggera, nel triathlon e nel rugby. Gli anabolizzanti sono preferibilmente assunti ancora nel triathlon e nel nuoto, mentre i diuretici vanno per la maggior parte utilizzati nel calcio, nel basket, nel tennis, nella motonautica e nella scherma. Insomma, il quadro non è proprio... No, non è tanto... Esaltante, è preoccupante, è proprio, cioè, in quell'ottica che dicevo, insomma, sport che serve in teoria per stare meglio e che invece porta a questi eccessi, insomma. Claudio ha chiamato da Genova, buongiorno. Buongiorno a tutti. In riferimento a quello che adesso ha detto adesso Belinazzi, mi ricordo tanti anni fa Indurain era rimasto, tra virgolette, coinvolto con un problema con un medicinale che aveva preso per problemi di salute e si chiamava il Ventolin. Sì. Ora chissà come mai per un mese in farmacia non si trovava più il Ventolin perché se l'erano comprato tutti. Quindi per dire che comunque anche la gente è normale, quando sente dice beh, però aspetta un attimo che magari qualcosa serve. Invece riferimento ai controlli non durante le gare, io mi sono sempre chiesto com'è possibile che alcuni atleti da un anno all'altro fanno la preparazione tutto quanto e poi da un anno all'altro diventano praticamente quasi irriconoscibili perché cambiano fisionomia proprio fisicamente. E allora qualcosa di strano ci deve essere, ovvio che certe cose fatte in quel senso durante la prestazione in sé della gara non si trova, però meno male che adesso ci potranno essere questi controlli preventivi, perché insomma, secondo me preventivi e a sorpresa, Claudio, perché è quello che ci annunciava Marco Bellinazzo all'inizio, che è all'origine di questa nuova normativa WADA, e cioè il DOP, tanto nella lotta a guardie e ladri è chiaro che è sempre la guardia a inseguire, no? il ladro è sempre un giro avanti, e chi insegue deve provare a cercare di anticipare la mossa successiva. Ora, chi insegue in questo caso, cioè l'antidoping, mi pare Marco, ha capito da tempo, e lo hai annunciato all'inizio spiegando per l'appunto la filosofia WADA, ha capito da tempo che il controllo in gara, subito prima, subito dopo, durante la gara, non serve più, perché la preparazione è stata ormai, è in circolo, quello che serviva è in circolo. Peraltro quello che si usa, o i prodotti nuovi che si usano nei grandi eventi, sono impossibili da trovare perché appunto c'è questo gioco di guardie e ladri, e lo hanno capito, per esempio il CIO l'ha capito per quanto riguarda Pechino 2008. Pechino è un caso emblematico perché gran parte, diciamo, delle sostanze che sono state individuate nei mesi successivi a Pechino non erano rintracciabili. Mi riferisco per esempio alla famosa epocera, no? Quella che poi ha comportato la squalifica di Ricco. Non erano individuabili, diciamo, con le tecniche di allora, per cui tutti i campioni sono stati congelati e saranno congelati per 8 anni. Da qui a 8 anni le autorità cinesi, ma poi il CIO in particolare, poi per quanto riguarda i controlli mondiali, potrà, e si è riservato, diciamo, di fare controlli man mano che verranno scoperte nuove tecniche per rintracciare le nuove sostanze sempre più sofisticate che gli atleti che si dopano usano, e si potrà squalificare da qui ai prossimi 8 anni gli atleti che verranno, diciamo, trovati retroattivamente in fallo, nel senso che avranno utilizzato appunto sostanze per alterare le proprie prestazioni. Quindi lotta al doping anche retroattiva, ma in questo caso insomma è assolutamente giustificata per chi crede nei valori dello sport. C'è dubbio. Io comincerei a strillare un cambio di argomento, nel senso che subito dopo l'intervallo, ormai mancano un paio di minuti scarsi, poi gli ascoltatori che sono incuriositi, che vogliono approfondire queste tematiche, avranno licenza e facoltà di farlo. Però c'è un altro argomento di giornata che indubbiamente è sorprendente, perché noi abbiamo sotto mano tutte le tabelle della Lega, ma per esempio l'edizione che è già in distribuzione a Milano e a Roma di 24 minuti, cioè il pomeridiano gratuito del Sole 24 Ore, titola: Serie A, pubblico in crescita rispetto all'anno scorso, si registra un più 10,6 di presenze negli stadi, che è un dato A, in controtendenza rispetto alle ultime stagioni, peraltro disastrose, quindi una risalita era attesa, ma insomma, è in controtendenza anche rispetto alle prime, non solo sensazioni, ma anche i primi calcoli che si erano fatti fino a non molto tempo fa. Ora, nel frattempo, è arrivato l'inverno, ci sono stati molti altri fattori di allontanamento dallo stadio. Le inquadrature, ogni volta che la camera si alza e va a beccare una tribuna, una gradinata, che non sia Roma, Milano, e Napoli magari e Firenze, è abbastanza desolante quell'inquadratura, eppure più 10,6. Come ce lo spieghiamo? Ce lo spieghiamo andando a leggere i dati, dopo li andiamo a leggere e vediamo se effettivamente in dettaglio, insomma, è tutto oro quello che luccica. Ecco, bene, questo mi sembra uno strillo interessante. Ancora 20-30 secondi solo per annunciare che invece, sempre a proposito di questi dati a fine giornata andata, non può essere contestato un numero assolutamente rassicurante che l'osservatorio ha comunicato: sono 28.000 in totale gli agenti di pubblica sicurezza impiegati in meno rispetto alle partite di calcio dello scorso anno, con un risparmio economico di oltre 7 milioni di euro. Un risultato importante, insomma, che è stato opportunamente sottolineato. Torniamo con qualche intervento di ascoltatore curioso, mi pare di capire da come mi risegnalano dalla regia, di approfondire queste tematiche di oggi. Giorgio, provincia di Pisa, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì, dunque, io ho ascoltato la trasmissione e mi pongo un problema. Noi sappiamo, si parla di prevenzione, si parla di cercare di prevenire l'uso anche da parte dei giovani, l'uso dei dilettanti, l'uso dei professionisti. Poi però dimentichiamo che nel caso del doping c'è anche molto l'emulazione. Per cui poi si fanno grandi trasmissioni su Pantani, su altri atleti noti, Maradona, e quindi si fa un po' l'effetto contrario a quello che si vorrebbe fare. Si fa la reclame di persone che purtroppo, poveracci, sono entrati in questo vortice, e questo mi sembrerebbe che non fosse giusto, anche perché proprio riguardo all'emulazione devo dire che i giovani possono anche dire: guarda, loro hanno fatto, hanno avuto, va bene, delle condanne, hanno avuto, però ora li sono idolatrati, li sono portati avanti da mass media. Sì, sono... Giorgio, sì, siamo un po' fuori tema, però mi abbia pazienza, nel senso che il fenomeno doping, come è nato, come si è sviluppato e perché, quale piaga sociale rappresenti, è un altro discorso. Gli esempi negativi che magari hanno avuto eccessivo risalto è un altro discorso ancora. Noi oggi qua stiamo semplicemente prendendo atto che le guardie ne hanno inventato un'altra, a costo di camminare su una dorsale abbastanza vischiosa, che è quella della privacy, che è quella della tutela della libertà personale, no? Mi pare, Marco. Assolutamente. C'è un rischio, diciamo, di misure troppo restrittive, però se si vuole fare seriamente la lotta al doping, lo si deve fare anche con misure importanti come quelle che sono state adottate. Poi CONI sta cercando, come ripeto, di mitigare un po' l'impatto di queste norme. C'è, forse sì, l'effetto emulazione c'è. Noi ora ci apprestiamo ad assistere a un Giro d'Italia in cui i due principali protagonisti saranno Armstrong, che è stato un campionissimo chiacchierato, nulla è stato mai scoperto a suo carico, per carità, certo. Però Ivan Basso, sì, ha pagato le sue colpe e c'è da chiedersi come mai non ci sia la tappa di San Patrignano, no? Qualcuno magari con la lingua un po' biforcuta. Io auguro che almeno in questo secondo caso ci sia, diciamo, un esempio positivo di chi ha sbagliato, ha pagato le sue colpe, insomma, e possa riscattarsi. Ce l'auguriamo tutti, evidentemente. Michele ha chiamato da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì. Io chiamavo, dunque, premesso che io sono favorevole a tutte le forme di anti-doping, però noi, io almeno come tifoso del Brescia, No? Adesso stiamo vivendo una situazione abbastanza particolare, non so se lo sapete, con Pozzantini e Mannini che adesso sono al Napoli. Praticamente questi qui, no, a causa di un ritardo all'antidoping che poi hanno espletato, risultato tutto negativo e tutto, adesso rischiano 2 anni di squalifica per questo ritardo. No, ma non ritardo di 2 giorni, di un giorno, così ritardo di roba di minuti dopo una partita per una sfuriata di Cosmi, credo. Sì, bravo. Ritardo bravo. Dopo un Chievo Brescia, dopo un Brescia Chievo perso dal Brescia, dove sono stati chiamati tutti dopo partita gli atleti a fare una chiacchierata, e per questo ritardo adesso tra l'altro continuano a rimandare questa sentenza. No, tenendo anche in apnea i giocatori stessi, e non vorrei che poi creando queste associazioni tipo la Vada, così qualcuno se ne approfitti anche. Beh, per... vabbè, adesso se ne approfitti anche per una congiura contro il Brescia, Michele, vediamo di non esagerare. Proviamo a sentire invece Marco. Rispondo io da napoletano e quindi anche da tifoso di Mannini, quindi sono assolutamente diciamo di sopra delle parti in questo senso. È innanzitutto scandaloso come il tribunale di Losanna, il tribunale internazionale, il doping, tra l'altro c'è quest'altra modifica della VADA che ora mi viene in mente: non ci sarà più possibile fare prima un appello alla federazione, poi al tribunale nazionale antidoping e poi a quello internazionale, ma per accorciare la catena si potrà fare ricorso o al tribunale nazionale antidoping del CONI oppure al tribunale di Losanna. Questi tribunali perlomeno dovrebbero garantire una risposta rapida e certa per evitare appunto che giocatori come Mannini stiano al di là del merito della questione, siano in attesa per mesi. In ballo per tutto questo. Certo. Purtroppo la vicenda di Mannini è più complicata di come è stata finora raccontata, Mannini e Pozzantini, perché esiste una regola chiara nei controlli antidoping. Nel momento in cui i giocatori venivano sorteggiati, ora saranno nominativi come abbiamo detto, ci deve essere sempre un contatto visivo, viene definito in questi termini, tra chi controlla, tra il controllore e il soggetto controllato. Nel caso di specie di quella sfuriata di Cosmi, i giocatori si allontanarono per un cospicuo tempo, quindi non ci fu più questo contatto visivo. Questo controllo, certo. E diciamo che ci sono, magari non sarà stato il caso assolutamente di Mannini, anzi da tifoso napoletano mi auguro che sia diciamo assolutamente riconosciuto innocente, ma siccome ci sono tecniche che permettono diciamo di intervenire per far sì che poi le analisi siano pulite e che queste tecniche possano essere adottate in lassi di tempi non molto ampi, c'è il rischio che la perdita del contatto visivo possa essere diciamo stata poi utilizzata appunto per utilizzare queste tecniche. Ripeto, mi auguro che non sia il caso, no, di specie. No, ma c'è la liceità di questo sospetto, anche perché, scusami Marco, in ogni caso se c'è una procedura antidoping in atto, quella procedura in quel momento ha la precedenza su tutto. Assolutamente. Anche sui cazziatoni di Cosmi. Assolutamente. O di chi che sia, o diciamo di Mourinho Domenica. Diciamo che nel calcio c'è sempre stata diciamo una tolleranza di fronte diciamo a situazioni. Ma è ovvio che in un caso del genere c'è molto poco buon senso da parte della VADA, no? Da parte dell'organizzazione antidoping, molto ma molto poco, anzi quasi nulla, ma non c'è stato buon senso in quel caso neanche da parte del Brescia. Si ricorda spesso il caso di Totti, il caso di Totti fu diciamo diverso appunto perché il contatto visivo non fu mai perso. Totti si era infortunato, aveva dei problemi fisici, entrò con il controllore, con chi era stato delegato insomma a prelevarlo, che ha assistito diciamo all'intervento del medico sulla gamba di Totti, o comunque sul giocatore infortunato, e dopo Totti ha fatto il controllo. In ritardo, ma mai perdere questo tipo di controllo. Tornerei, e poi così chiudiamo questi due argomenti di oggi, tornerei su queste tue perplessità riguardo a questi numeri, perché insomma, si dice sempre che se c'è una cosa, per fortuna almeno, che non può essere contestata, sono i numeri. Però i numeri possono anche essere da una parte forniti e da un'altra parte letti in una chiave anziché in un'altra. Riconosciamo innanzitutto il dato positivo insomma della riduzione delle violenze negli stadi, degli incontri che hanno fatto registrare appunto episodi di violenza o feriti sia tra tifosi che tra le forze dell'ordine. Sono sicuramente risultati positivi e va dato atto al Ministero dell'Interno e al CASM di aver fatto appunto interventi importanti. Sui dati in quanto tali, insomma, questo 10% in più in realtà significa che ci sono circa 2000 spettatori in più a partita. Io per curiosità ho guardato un po' le cifre degli spettatori medi delle squadre che l'anno scorso erano in B, e quindi sì, mi riferisco a Bologna, Lecce e Chievo, che oggi fanno in Serie A più o meno 43.000 spettatori a partita, sì, in media. In totale. In totale. Le tre squadre che invece l'anno scorso erano in Serie A, che sono retrocesse, che sono nero, sono Parma, Empoli e Livorno, in Serie B ne fanno circa 23.000. Ora è chiaro che insomma in Serie B c'è minore entusiasmo ad andare a seguire le squadre, non ci sono incontri di cartello, però ballano circa 20.000 spettatori. Questi 2.000 in più registrati insomma al termine del girone d'andata della Serie A risultano insomma già in parte potrebbero compensati essere semplicemente da questo cambio della guardia insomma nella massima serie. Peraltro i dati del campionato italiano sono abbastanza deludenti se raffrontati a quelli degli altri campionati. Insomma, abbiamo di poco superato la Francia, ma siamo di molto dietro agli spettatori medi di Inghilterra, Spagna e Germania. Soprattutto Germania, che è nettamente al comando e che sta vivendo un momento di boom. E soprattutto vanno, scusami, termino associati al fatto che la Serie B conta appena 5.000 spettatori medi a partita. Ecco, questo mi sembra un dato su cui riflettere, e cioè è vero che insomma, tra Serie A e Serie B c'è sempre stata una bella differenza da tutti i punti di vista, ma è anche vero però che il distacco tra queste due categorie non è mai stato forte come adesso, né da nessun punto di vista. Quindi da un punto di vista qualitativo, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di attenzione mediatica, direi, forse in questo momento in particolare, ma anche da un punto di vista di afflusso di pubblico, perché scorro questa tabella della Lega Nazionale e trovo che su 22 società, e torniamo a questi numeri abnormi tra l'altro, ce ne sono 12, e quindi la maggioranza, che non arriva a 5.000 spettatori a partita. Ora, in seconda divisione in Inghilterra, quando sono 28-30, non dico che sono pochi, ma siamo nella regola. Se poi associamo a questi dati la crisi economica che stanno attraversando le squadre di Serie B in particolare, che pagano gli stipendi ormai con 6-8 mesi di ritardo, insomma capiamo che non sono proprio tutti i fiori insomma quelli, certo, che vengono presentati. Mentre invece potremmo concludere in gloria con questi dati che riguardano per l'appunto la diminuita presenza di forze dell'ordine negli stadi, che significa più steward, ma che significa anche che lo steward è un costo per le società, mentre le forze dell'ordine sono un costo per lo Stato. E in questo momento in particolare mi sembra che... Beh, almeno da questo punto di vista siamo in linea con l'Europa. Sì. Numero di incidenti diminuisce, tra l'altro il dato del 10% in più di spettatori è anche associato al fatto che tutte quelle restrizioni di cui abbiamo parlato spesso qui, di divieto di accesso ai tifosi, sì, e quant'altro, rispetto allo scorso campionato sono diminuite del 15%, quindi meno 15% di divieti di accedere allo stadio, più 10% di spettatori. Anche diciamo questa minore severità o questa applicazione più intelligente dei divieti da parte del CASMS ha fatto sì insomma che un po' ci sia stato questo incremento di spettatori, insomma ben venga alla fine. Con altri numeri confortanti che sono meno incidenti, meno feriti sia tra gli spettatori che tra le forze dell'ordine, e quindi insomma qualche segnale positivo c'è, ma basta magari non farsi eccessive le fanfare, io le illusioni, e evitiamo le fanfare, anche perché appunto un minimo di lettura poi in controluce ci può ancora stare. Grazie Marco Bellinazzo. Grazie a voi. Complimenti vivissimi, perché sennò qualche ascoltatore poi se la prende con me e mi accusa di ingratitudine. 22 gennaio, che cosa sarà successo nella storia dello sport? Lo racconta come sempre Nicola Filippone. Sembra ieri. 22 gennaio 1997. Inizia a Palermo l'avventura sulla panchina della nazionale di Cesare Maldini, che ha preso il posto di Arrigo Sacchi, tornato improvvisamente al Milan. Gli azzurri affrontano in amichevole l'Irlanda del Nord, battendola per 2-0 grazie a due autoreti, una per tempo, curiosamente entrambe realizzate dal terzino Wright. L'altro debuttante della serata è un talentuoso difensore del Parma, il futuro capitano campione del mondo Fabio Cannavaro, subentrato a Costa Curta al 72esimo minuto. Non vi pare si stia sfiorando il ridicolo, scrive Francesco. Vada uguale a verifica adulteri degli atleti. Beh, questa è carina, però non si sta affatto sfiorando il ridicolo, si sta sfiorando, siamo dentro al drammatico che è la piaga del doping, e quindi ben venga qualche provvedimento dalle modalità discutibili, come indubbiamente questo per certi versi è. Antonio ha chiamato da Parma, buongiorno. Salve, dottor Garanzini. Dica. Senta, io cambio un po' discorso. Lo cambio. Io sento che lei ogni tanto quando parla di Nereo Rocco le viene giù la lacrimuccia. No, la lacrimuccia dopo 30 anni no, però certamente. Allora, ieri sera sono stato su internet a vedere Gianni Rivera, e allora capisco perché un Nereo Rocco è diventato Nereo Rocco, con una squadra e un Gianni Rivera così erano fantastici. La sento per radio, la saluto. Antonio, però lei è beato, lei che è giovane e ha fatto un po' di salti, no? di salti nel tempo. Nereo Rocco era già Nereo Rocco prima di conoscere e di incontrare Gianni Rivera, perché aveva fatto la sua prima squadra allenata fu la Triestina del 47-48. Lui debuttava da allenatore e la Triestina di allora era una squadra che era stabilmente in Serie A, ma insomma stiamo parlando di una squadra di medio-basso calibro. Insomma, quell'anno con Rocco allenatore arrivò seconda ex aequo con il Milan e la Juventus, staccata di 16 punti dal Grande Torino, ma insomma dal Grande Torino, non da una squadra qualunque. Poi Rocco diede là all'epopea padovana. Il Padova fu alla fine degli anni 50, per alcuni anni, quello che poi il Verona sarebbe stato nei primi anni 80 per il calcio italiano, senza riuscire ad arrivare allo scudetto, ma levandosi tante di quelle soddisfazioni, e poi cominciò l'epopea milanista. Dopodiché, se mi vuol dire che Rocco è poi stato fortunato a un certo punto della carriera a poter contare su Rivera, Rivera io ho sempre sostenuto essere stato il più grande calciatore italiano del dopoguerra, e poiché sull'anteguerra le documentazioni sono, insomma, oltre che datate, anche relative, non è escluso che sia stato il più grande giocatore italiano di sempre. Claudio da Udine, buongiorno. Claudio da Udine, mi sembra sia caduto nel senso della linea, ovviamente. Da Gorizia, allora, mica tanto lontano, Giancarlo, buongiorno. E buongiorno a lei, grazie di avermi richiamato. Senta, io vorrei ricordare un avvenimento di un giocatore in una partita, credo che sia proprio Parma-Inter, in cui dopo un fallo fu mandato fuori e lui fece il segno di quanti soldi prendevano gli arbitri. Dino Baggio. Ecco, Dino Baggio, non mi veniva in mente, un po' l'emozione della fatto con lei. Ma era Parma-Juve però, non era Parma-Inter. Questa cosa, perché non è cambiato niente, da allora ad oggi... vedo che le cose sono tale e quali in ogni partita, ed è questo veramente che lascia un po' amaro in bocca all'Inter: o gli danno un rigore, o alla squadra avversaria glielo negano, oppure si inventano oppure i fuorigioco per lei non esiste come regola. Ma allora domando, ma in questo paese, ma che si deve fare per vedere una partita normale in cui anche le grandi, quelli che hanno i soldi, perché sono sicuro che Moratti paga un sacco di soldi per fare questi risultati, vengono tutelate. Siamo amareggiati, diciamo. Poi se succedono incidenti... Siamo amareggiati al punto da dire un sacco di fregnacce, mi pare, no? Comunque da non negarsene alcune, perché lei ha detto in ogni partita, mi pare che l'Inter domenica scorsa a Bergamo abbia perso regolarmente, nel senso che non ho visto grandi aiuti. Avevo appena finito di dire la scorsa settimana che aveva pareggiato contro il Cagliari in casa senza che l'arbitro facesse una piega, e la cosa mi aveva anche favorevolmente impressionato. A proposito di quell'arbitraggio di Pierpaoli, ieri sera indubbiamente Orsato, che è di Schio, mi è sembrato bravo, molto bravo, perché è molto autorevole, ma mi è sembrato anche un po', oggettivamente, un po' casalingo. L'errore più grave l'ha commesso certamente l'assistente alla fine, perché ha commesso un doppio errore: non ha colto il primo offside di Samuel e poi non ha colto, che è l'errore principale, ma non ha colto nemmeno il secondo, perché quando poi Ibrahimovic calcia c'è solo mai contra tra la porta e un altro avversario, quindi è in fuorigioco anche in quel caso, a parer mio, e quindi questo è un errore grave di un assistente. Se tutto questo lei non riesce a ritenerlo una combinazione, io le suggerirei di impiegare meglio il suo tempo libero, perché è inutile assistere a uno spettacolo truccato, se lei lo reputa tale, come mi è parso di capire. Da Udine, Claudio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io mi volevo allacciare alla notizia che ho sentito oggi, che l'allenatore dell'Inter, domenica, sfogandosi negli spogliatoi con i giocatori, ha messo in discussione, diciamo, la validità degli scudetti, cioè non ha messo in discussione, ha detto li avete vinti sì quegli scudetti, ma un anno penalizzati, un anno agevolati e l'ultimo, l'anno scorso avete vinto in fin dei conti l'ultima domenica. Volendo dire, secondo me, che infine non siete questi fenomeni che volete far passare. Certo. E io condivido quello che dice, perché effettivamente gli scudetti li abbiamo vinti benissimo, però siamo stati agevolati. Questo sembra che abbia stizzito il buon nostro grande presidente Ange Moratti, e che sia questa la prima pietra per far viaggiare via anche questo signore che dice la verità, come a suo tempo aveva detto il povero povero nel senso bravissimo, sì, allenatore, che non mi ricordo il nome, quello che è stato esonerato quando era prima, che lo stavano premiando, che Simone, è una persona fantastica. Simone. Aveva detto Simone che l'Inter non avrebbe mai giocato bene con i giocatori che aveva, probabilmente avrebbe vinto, e anche lì il buon Moratti lo mandò via poi. Che sia questa l'occasione non buona, lo so, Claudio, non, secondo lei? Non lo so, non ho idea. Anch'io ho letto con interesse, con grande curiosità, questa la ricostruzione che è stata fatta di questa sfuriata di Mourinho negli spogliatoi di Berga. Gli ha detto, pare gli abbia detto, guardate che il primo scudetto l'avete vinto in segreteria, il secondo l'avete vinto contro nessuno, il terzo l'avete vinto per un punto o per due punti all'ultima giornata, quindi è meglio che abbassiate la cresta un po' tutti e che ricominciate a correre. Non l'ha presa benissimo i giocatori, non l'ha presa benissimo il presidente, che immediatamente è stato, dato che non c'era in spogliatoio, è evidente che qualcuno dei senatori è corso a singhiozzare, al capezzale, come spesso è accaduto in quell'ambiente, evidentemente continua ad accadere, sempre che la storia sia vera, ma se non è vera è molto, ma molto ben inventata, perché somiglia all'ambiente e somiglia soprattutto al carattere di Mourinho quando perde l'indirizzo di casa. Alessandro da Rovigo, buongiorno. Buongiorno, mi scusi se rientro sul discorso doping, volevo chiedere, io so che un controllo antidoping completo di EPO eccetera costa una cifra notevole, i costi chi è che li paga? Le società contribuiscono o siamo sempre noi tramite i contributi che dobbiamo pagare, le società piccole con i bambini che devono pagare anche per queste società grandi? Ecco, volevo sapere se c'era questa possibilità di approfondire questo discorso. Sì, lo faremo prima o poi, non lo domandi a me. Io non credo però che sia a carico dei controllati, no? Evidentemente queste saranno spese che andranno a carico di chi questi controlli li fa, li ordina, o comunque saranno ripartiti in questo modo, io credo. Cosa ne pensa di Santon, mi domanda un ascoltatore. Ne penso il meglio possibile, perché è un ragazzo del 91, quindi nemmeno 18 anni, o forse 18 anni appena compiuti, che debutta con quella spavalderia in una partita contro la Roma, certamente di qualità ne ha e di personalità pure. Se poi si aggiunge che Santon è un destro naturale, quindi gioca in genere dall'altra parte ed è stato impiegato sulla sinistra al posto di Maxwell, mi sembra che sia una ragione in più per apprezzare il debutto molto ma molto positivo di questo ragazzo. Da Genova ha chiamato Diego, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie per avermi richiamato. Dica. Io volevo ritornare sull'argomento dell'aumento degli spettatori negli stadi, e in particolare non sono sorpreso di questa percentuale in aumento, soprattutto perché io vivo domenicalmente l'esperienza del Ferraris a Genova, io sono tifoso genovano. E ora il Ferraris al completo contiene 35.000 spettatori, il Genoa circa 24.000 abbonati, se mettiamo circa 1.000 tifosi che arrivano da fuori nelle trasferte vicine più la quota dei paganti, ecco lì che arriviamo facilmente ogni domenica ad una quota intorno ai 28-29.000 spettatori, che su 35.000 significa saturare dell'80% in più lo stadio. Quindi sicuramente il momento super positivo della squadra di Gasperini aiuta, ma a Genova il vedere lo stadio con più del 70-75% pieno ogni domenica ormai è un trend che va avanti da anni. Sì, soprattutto... è una vecchia abitudine. Genova ha sempre avuto un grande pubblico, ha sempre avuto un alto tasso di affollamento negli stadi, anche quando le cose per il Genoa, per esempio, non andavano nemmeno lontanamente come quest'anno, e si parla di altre categorie, tra l'altro, e non della Serie A. Grazie a Peter Bescappè in regia, Flavio Suardi in redazione, grazie a tutti voi per averci seguiti. Giornale Radio.